Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno da Insergante il Traghettatore nella nuova versione di Ferry Boat. Partiamo subito ricordandovi che oggi è la giornata delle arance della salute. L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro organizza dal nord a sud un 20.000 volontari, un esercito, che offriranno queste buste di arance, 3 kg di arance rosse di Sicilia, costeranno 9 euro, sono più di 400.000 le reticelle messe a disposizione. L'obiettivo di questa giornata e di questa vendita nelle piazze è raccogliere 4 milioni di euro per aiutare la ricerca e combattere il cancro. Restiamo sempre nel tema della tragica malattia, questa volta parliamo di piccoli malati, dell'attività della Fondazione Teodoro. Infatti domani è anche l'ultimo giorno, domani domenica, è l'ultimo giorno in cui sarà possibile con gli SMS solidali contribuire a finanziare il progetto della Fondazione Teodoro, che ci spiega il direttore Daniela Bianchi. Buongiorno direttore. Buongiorno, oggi e domani sono gli ultimi due giorni per comporre un numero speciale, 45502 è il numero a cui inviare un SMS per portare il sorriso ai bambini malati. Fondazione Teodora con i suoi speciali clown porta allegria ai bimbi. Se anche voi volete farlo, volete essere al fianco dei nostri clown, il numero da fare è 45502, dai cellulari ma anche da rete fissa, da qualsiasi operatore. È molto importante, io invito veramente tutte le mamme, i papà, i nonni a fare questo numero e a contribuire a portare allegria ai piccoli pazienti che affrontano un ricovero veramente lungo e difficile. Grazie direttore. 45502, grazie, ci associamo al suo invito. A presto. Ricordiamo che sono 8.000 bambini ricoverati in ospedale che stanno affrontando questa incredibile battaglia. Domani è anche l'ultimo giorno della mostra WWF Il pianeta ha bisogno di te, che è organizzata dal Comune di Milano e da Codice. È una mostra realizzata in collaborazione con Science Museum di Londra ed è riferita all'anno mondiale della biodiversità proclamato appunto dalle Nazioni Unite. Segnaliamo lunedì, questa volta lo diciamo con un certo anticipo perché vale la pena forse dare un'occhiata, segnaliamo che al Politecnico di Torino ci sarà Computer Ethics, etica e responsabilità sociale delle tecnologie dell'informazione, un argomento che, come dire, è agli albori forse, ma certamente di cui sarà proprio il caso di parlare e approfonditamente. Lo chiediamo ad Ivo Delotto. Buongiorno professore. Buongiorno. Che è coordinatore per AICA, che è uno dei relatori al convegno. AICA è un'associazione che ha fra gli altri progetti proprio un progetto che riguarda l'etica nell'informatica. Infatti l'AICA, come altre associazioni che operano nel settore, ha ritenuto fosse importante che anche da noi si approfondisse questo tema. L'ambiente, anche tra le scuole e negli insegnamenti universitari, è concepito come terra, acqua ed aria tradizionalmente. L'uomo però è un essere sociale che vive di comunicazioni e di relazioni e quindi l'ambiente è anche informazione e le tecnologie digitali altamente pervasive vi giocano un ruolo determinante. I problemi etici connessi quindi con l'informazione toccano direttamente il tema che riguarda in particolare l'AICA. L'AICA è l'associazione dei professori e dei ricercatori e dei tecnici che operano nel settore dell'informatica. I temi a cui fa riferimento sia l'intervento al Politecnico di Torino, sia i premi che sono stati banditi con la collaborazione di Rotary International per chi si laurea con delle tesi dedicate a questo argomento, i temi, dicevo, toccano una varietà di argomenti direttamente utili per capire cosa si intende per etica e in particolare di etica applicata alle tecnologie dell'informazione. Bene, professore, grazie, la ringraziamo e le chiediamo scusa per averla, come dire, sincopato l'informazione. Alla prossima, professore. Ricordiamo che lunedì è l'ultimo giorno destinato all'erogazione liberale in denaro a favore di enti no profit, quindi alla deducibilità piena pari al 100% per quanto riguarda le imprese. Abbiamo finito per questa puntata, vi ricordo che Ferry Boat va in onda il sabato alle 6.50 e alle 13.55 e la domenica alle 6.50 e alle 14. Scrivetemi per dare informazioni sulla vostra attività a ferryboat@radio24.it. Grazie. da Rita Panizzi in redazione e a Carmelo Lauricella in regia.